Avvertenza alla raccolta Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Filippo Gioachin. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Avvertenza. Raccolgo in un sol corpo tutte le novelle pubblicate finora in parecchi volumi e tant'altre ancora inedite, sotto il titolo Novelle per un anno, che può sembrar modesto e al contrario è forse troppo ambizioso se si pensa che per antica tradizione dalle notti o dalle giornate si intitolano spesso altre raccolte del genere, alcune delle quali famosissime. Secondo l'intenzione che mi ha suggerito questo titolo, avrei desiderato che tutt'intera la raccolta fosse contenuta in un volume solo, di quei monumentali che da gran tempo ormai per opere di letteratura non usano più. L'editore, e chi legge ne intenderà facilmente le ragioni, non ha voluto seguirmi in questo desiderio e m'ha anzi consigliato di dividere la raccolta non in 12 volumi di 30 e più novelle ciascuno, come almeno m'ero rassegnato a chiedergli, ma in 24, il che potrebbe suggerire a chi ne avesse voglia qualche non inutile considerazione sull'indole e la necessità del tempo nostro. M'affretto ad avvertire che le novelle di questi 24 volumi non vogliono essere singolarmente né delle stagioni, né dei mesi, né di ciascun giorno dell'anno. Una novella al giorno, per tutto un anno, senza che dai giorni, dai mesi o dalle stagioni nessuna abbia tratto la sua qualità. Ogni volume ne conterrà non poche nuove, e di quelle già edite, alcune sono state rifatte da cima a fondo, altre rifuse e ritoccate qua e là, e tutte insomma rielaborate con lunga e amorosa cura. In grazia almeno di questa cura, l'autore delle Novelle per un anno spera che i lettori vorranno usargli venia, se dalla concezione che egli ebbe del mondo e della vita troppa amarezza e scarsa gioia avranno e vedranno in questi tanti piccoli specchi che la riflettono intera. Luigi Pirandello. Fine dell'avvertenza. Registrazione di Filippo Gioachin.